È il sogno di sempre di tutti gli editori, scoprire un talento e farlo diventare uno scrittore di successo. Negli ultimi anni quella degli esordienti è diventata una vera e propria moda. Anche se la crisi fa pubblicare un po' meno, le case editrici non rinunciano all'esordiente di turno, sperando che possa trasformarsi in una gallina dalle uova d'oro. Qui al Salone del Libro di Torino, diversi gli incontri riservati agli esordienti, che raccontano soprattutto come sono arrivati alla pubblicazione. C'è chi è andato sul classico, inviando il manoscritto alle case editrici, chi si è affidato ad una gente, chi come Raffaella Romagnolo aveva pubblicato prima con un piccolissimo editore e poi è stata notata da PM. Ma c'è anche chi ha deciso di seguire una vecchia tradizione, come Gaia Manzini, che con il suo primo romanzo è fra i 12 finalisti del premio Strega. Una mia amica mi aveva segnalato, consigliato comunque anche in lettura la storica rivista fondata da Moravia che si chiama Nuovi Argomenti e mi aveva detto: guarda che pubblicano spesso dei racconti di esordienti. E quindi, non so, lo consiglio a tutti. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.